il cui nome deriva, come molti sanno, dalla moneta da 10 centesimi con cui i borghesi dell'epoca compravano anche il sigaro. Questa storia ce la racconta Adriana Fracchia. Aspetto mezzanotte che il giornale comprerò, lo stadio, il trotto, il resto del Carlino. Il 21 marzo del 1885 nasceva a Bologna il resto del Carlino. 125 anni di vita per uno dei più antichi giornali italiani, profondamente legato al suo territorio e in particolare ai bolognesi. I suoi quattro fondatori gli imposero un nome che era tutto un programma. Dare il resto del Carlino significava dare una lezione, regolare i conti con i potenti del momento. Con un Carlino poi si comprava un sigaro e con il resto, due centesimi, si comprava il giornale. L'attuale direttore del resto del Carlino, il 36esimo per l'esattezza, Pierluigi Visci. Noi non vogliamo, come dire, celebrarci, non vogliamo tenere la testa voltata al passato. Sì, il nostro passato è bello, abbiamo raccontato tante storie, abbiamo ospitato tanti grandissimi personaggi, ma soprattutto vogliamo dire che siamo proiettati nel futuro. Il resto del Carlino è anche un po' sinonimo di Bologna, lo è ancora? Sicuramente, il Carlino ha i piedi ben piantati in questa città di Bologna. È chiaro che non è solo Bologna, perché oggi il Carlino estende la sua rete di diffusione più capillare, le sue edizioni in tre regioni, Marche, Emilia-Romagna e parte del Veneto, la provincia di Rovigo. E abbiamo 15 edizioni, 15 giornali locali, oltre a 19 in questo momento portali web cittadini. Bologna è il nostro core business, come si dice. Qual è il problema maggiore per il 36esimo direttore, cioè lei? Ma il 36esimo direttore si sta misurando con dei cambiamenti, credo, epocali, il più importante del quale è l'irruzione nel mercato dei media, di internet e del web. E quindi dobbiamo, come moltissimi altri giornali, cambiare un po' la filosofia, avvicinarci ai lettori con un prodotto che sia maggiormente di riflessione, di approfondimento, più che di cronaca. Questa è la grande sfida che, come direttore, 36esimo direttore del resto del Carlino, ma credo anche colleghi di altri giornali, mi trovo ad affrontare. Ricordiamoci la vecchia battuta che il giornale è la preghiera laica del mattino. Ecco, questo mi fa essere ottimista sul futuro della carta stampata e soprattutto dei quotidiani. Lettore affezionato del Carlino, nonché bolognese d'oca, e regista cinematografico Pupi Avati. Il giornale lo si andava a comprare e questo era un rito, ma non credo più praticato nell'oggi, ma in stazione dopo mezzanotte si andava a comprare il Carlino e ci si fermava a mangiare le lasagne, perché Bologna allora disponeva, la stazione centrale di Bologna disponeva di un ristorante dove dicevano che si facevano le migliori lasagne di Bologna. Allora si comprava il Carlino allo stadio e si mangiava le lasagne. Non era neppure definito il resto del Carlino, era il giornale, hai comprato il giornale e quello era. È stato il riferimento di tutta la città, di tutti noi fin da ragazzi, specialmente quando io, essendo jazzista e quindi esibendoci nei concerti, la sera dalla fine del concerto ci precipitavamo alla redazione del giornale con ancora le rotative, non ancora in moto, perché allora i giornalisti facevano vita notturna, chiudevano i giornali nelle ore tarde, e andavamo da questo giornalista che si chiamava Giorgio Martinelli, che era un critico, per leggere in anteprima quello che aveva scritto delle nostre esibizioni. Quali erano le pagine, diciamo, più attese? Ecco, vabbè, da un jazzista, evidentemente. Erano quelle della cronaca locale, evidente. Al giornale si guardava in quanto chi andava sul giornale, quello lì è andato sul giornale, voleva dire che così era assurdo a una certa notorietà. Essere citato sul resto del Carlino significava allora avere una visibilità totale. Mia sorella tutte le mattine mi telefona ancora oggi e mi dice sul giornale, non dicendo il Carlino, dicendo oggi sul giornale parlano di te. Che il Carlino era il giornale di tutti, cioè non lo si poteva evitare, era un giornale che non divideva. faceva, ma che univa la città in quanto era testimone attento di tutto quello ed esclusivo di tutto quello che accadeva. Non c'era alternativa ed è rimasto per molti anni così. Poi naturalmente le cose sono mutate. Adriana Fracchi, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 44 minuti è tutto per questa edizione di Italia in Controluce, un programma, ve lo ricordo, con il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Carmelo Lauricella. Continuate a scriverci le vostre storie ai nostri indirizzi, che vi ricordo sono controluce@radio24.it, oppure anche su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Adesso c'è America 24 con Mario Platero. Buona giornata da Alessio Maurizi.